Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, il cambiamento degli stili di vita, l'evoluzione del pensiero, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 731 e parleremo ancora di orsi e di carne coltivata, ma anche di politica, di libri, di guerra, con una forte attenzione, dunque, alle emergenze del presente. La ricetta della settimana e la colonna sonora della puntata sono entrambe di Gabriele Palloni, rinomato chef e appassionato DJ. Se tu chiudi gli occhi e mi baci, tu non ci crederai, ma vedo le mille bolle blu e vanno leggere, vanno, si rincorrono, salgono, scendono per il cielo. Dobbiamo tornare a parlare di orsi perché in Trentino il solito Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma, ha messo nel mirino un altro esemplare, chiamato burocraticamente M90, protagonista nei giorni scorsi di un controverso incontro ravvicinato con una coppia di escursionisti nei pressi di Mezzana. I due hanno raccontato d'essere stati inseguiti per 800 metri dall'animale, riuscendo a mettersi in salvo. Quanto basta per spingere Fugatti a incaricare gli uffici di svolgere approfondimenti sulla cosiddetta problematicità dell'animale e ipotizzare il suo abbattimento? In difesa di M90 sono entrate in azione ancora una volta le associazioni animaliste, che mettono in dubbio la stessa ricostruzione dell'episodio e contestano a Fugatti un approccio massimalista. Nutriamo seri e fondati dubbi circa la ricostruzione, ha detto EMPA, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali. È infatti noto che i plantigradi corrono più velocemente degli umani e che se davvero l'inseguimento si fosse protratto per 800 metri, l'animale avrebbe sicuramente raggiunto la coppia. Secondo un'altra ricostruzione, l'orso, alla vista dei due fidanzati, si sarebbe allontanato in direzione opposta. EMPA sostiene che il vero obiettivo di Fugatti è ancora una volta solo quello di uccidere un orso. Altrimenti non si spiega il motivo per il quale egli si sia subito affrettato a chiedere l'uccisione dell'animale, senza prima accertare la reale dinamica dei fatti e senza prevedere alcuna misura alternativa. Se il presidente della provincia dovesse firmare una nuova condanna a morte, ci rivolgeremo nuovamente alla giustizia amministrativa, che ha finora sospeso tutti i provvedimenti analoghi emanati da Fugatti. Così EMPA. In onda il cielo è così piccolo, il mondo che ci osserva. Gianluca Felicetti dal 2006 è presidente di LAV, Lega Antivivisezione, la principale organizzazione animalista del nostro paese. Nel suo nuovo libro La politica degli animali, edito da People, compie un'ampia ricognizione dei temi salienti della questione animale contemporanea, letta nell'ottica di un'associazione impegnata nella tutela, giorno per giorno degli animali e nel miglioramento della legislazione che li riguarda. Un libro pratico dunque, non teorico, con la messa a fuoco di questioni chiave dei nostri giorni, dalla guerra ai selvatici in corso in varie parti del paese, alla questione carne coltivata, ai passi avanti fatti nella ricerca scientifica senza animali, ai tanti punti critici sul piano normativo esistenti a livello europeo, dove agisce una potente lobby legata all'agroindustria tradizionale, come Felicetti documenta, attingendo al docufilm Food for Profit di Paolo D'Ambrosi e Giulia Innocenzi. Nella parte più propositiva del testo, Felicetti concentra l'attenzione, proprio in apertura del libro, sul manifesto Non torniamo come prima, nato nel pieno dell'emergenza Covid-19, quando l'apertura al cambiamento radicale del modello economico e sociale dominante pareva concreta. Nello shock del lockdown, nella paura per le conseguenze della zoonosi che aveva dato origine alla pandemia, sembrava che le persone, e forse le istituzioni, o almeno una parte di queste, potessero mettersi in ascolto di chi da tempo già denunciava il sistema come un modello di sviluppo incapace di futuro. In quel manifesto l'AV chiedeva di non considerare la pandemia come un caso isolato, ma come il frutto di una stortura di fondo, con l'eccessiva pressione sugli ecosistemi e lo sfruttamento degli animali, sostenendo quindi che non c'era e non c'è una normalità alla quale tornare. Cambiamo ora o sarà troppo tardi, diceva l'AV, indicando l'antispecismo come modello di riferimento. Era un progetto ambizioso, ma adeguato alla gravità del momento, e tuttavia non ha trovato ascolto. Passata l'emergenza, gli sforzi si sono concentrati nel desiderio di ricominciare tutto come prima, più di prima, al punto, possiamo aggiungere, che oggi si notano elementi addirittura di regressione. L'AV è un'associazione che svolge un'azione quotidiana di pressione sui decisori politici, confrontandosi con le potenti lobby dell'agroindustria, della ricerca scientifica sugli animali, della caccia e delle armi. Un'azione difficile che ha bisogno di trovare consenso nella società. È questo che Felicetti intende per politica degli animali. Nelle righe finali del libro scrive: «La liberazione degli animali dall'oppressione umana, la loro vita, il rispetto per loro, dipende da tutte e tutti noi, dalle nostre scelte, dalla politica. Sta a noi cambiare tutte e due». Abbiamo rivolto alcune domande a Gianluca Felicetti. Gianluca Felicetti, il movimento animalista si è spesso considerato apolitico o impolitico. È cambiato qualcosa? Sicuramente non l'ha mai fatto la LAV, che certo si dichiara ed è apartitica, che è ben altro. Nel rifiuto, virgolette, della politica, nella generalizzazione del sono tutti ladri o non risolveranno mai nulla, è chiaro che anche chi fa azioni per salvare animali questi anni ha fatto, come dire, di tutta l'erba un fascio. Noi come LAV riteniamo invece, abbiamo sempre ritenuto che il condizionare, il premere sulla politica, sull'istituzione fosse doveroso, fosse altro per una questione di potenziali numeri di animali che possono essere salvati solo in questa maniera, attraverso decisioni da parte delle istituzioni e della politica. Nel libro cerco di consolidare proprio questo nostro modo di realizzare le attività per i diritti degli animali, facendo capire che salvare gli animali non vuol dire solo salvare gli animali, ma vuol dire realizzare un mondo migliore per tutti e fare in modo che chi si occupa di animali, virgolette, non si occupi di animali, cioè cerchi di capire che il cambiamento è necessario attraverso la solidarietà, il rispetto, la tutela della vita in tutte le sue forme, proprio grazie anche attraverso la battaglia per i diritti degli animali. Nel suo libro, fra molte altre cose, scrive che stiamo assistendo nuovamente a un'epoca, una nuova era, nella quale gli animali, almeno alcune specie, vengono considerati come capri espiatori. A cosa si riferisce e perché avviene questo? Ma sono in particolare gli animali selvatici che sono come sempre nel mirino di chi li vuole mangiare, di chi li vuole uccidere per divertimento. E questi animali nel momento in cui hanno avuto una protezione figlia anche di un conservazionismo, di un ambientalismo anni 50, 60, 70 e avendo ripreso e per fortuna confidenza con i territori che gli abbiamo sottratto in tante maniere, non solo con le doppiette ma anche con il cemento e con i pesticidi in agricoltura, con l'intensivizzazione appunto della presenza degli esseri umani sul territorio, ecco, di fatto attraverso il loro recupero della loro animalità, del loro essere animali liberi e selvatici e in numeri che l'uomo considera sempre superiori a quello che è la sua percezione, ma del tutto personale, si è andati in conflitto con quella che è un'immagine che da una parte appunto è sempre quella di un certo tipo di Italia rurale, gli animali sono dei nemici a prescindere, e dall'altra con gli animali alla Disney, gli animali descritti dai cartoni animati, gli animali umanizzati, perdendo in tutti e due i casi la considerazione dell'animale come soggetto di diritto, come essere che ha diritto a una vita degna di essere vissuta. Gli esempi dei cinghiali, dei lupi e anche degli orsi, questi ultimi tra l'altro riportati in Trentino dopo praticamente essere stati sull'orlo dell'estinzione proprio per volontà solo dell'uomo e non certo, virgolette, degli animalisti, chiuse virgolette, sono la rappresentazione di questo conflitto che è destinato con la questione delle cosiddette specie invasive aliene, bruttissimo termine, che sta a descrivere tutte le specie che entrate nel nostro paese contro la loro volontà per motivi in particolare di commercio per, virgolette, diventare pet oppure per motivi commerciali, pensiamo ai parrocchetti, alle nutrie, agli scoiattoli grigi e così via, ma non chiudendo mai il rubinetto di questo rapporto distorto con questi animali, fondato sempre sul loro sfruttamento. Questi sono animali che vengono cacciati, catturati in natura nei loro paesi d'origine e poi che comunque vengono ingabbiati, che vengono cacciati, che vengono sterminati poi nel nostro paese. Questo fa sì che dopo il capro espiatorio, virgolette, animale addomesticato a forza, che doveva liberare all'epoca e nei secoli le nostre colpe, poi questi capri espiatori sono diventate queste altre specie animali, come se poi tra l'altro la loro uccisione, virgolette, risolvesse i presunti problemi di cui vengono additati. È un po' come sempre la distruzione dell'altro, del diverso, dell'immigrato, è la stessa cosa anche per gli esseri animali. Se le chiedessero di indicare un provvedimento politico urgente in favore degli animali, una misura da prendere subito, che cosa sceglierebbe? Ma sicuramente, per quanto è possibile, per esempio da un punto di vista normativo ora e qui, per quanto è già credibilmente, come dire, instradato negli ambiti delle istituzioni, potrei rispondere facilmente: la nuova legge contro il maltrattamento degli animali, sanzioni più efficaci per prevenire e contrastare i reati contro maltrattamenti e uccisioni di animali. Però se avessi la bacchetta magica, il provvedimento base che promulgherei sarebbe quello di fermare, di dire stop al commercio degli animali, alla loro monetizzazione, alla loro vendita. Questo sarebbe un provvedimento base che potrebbe essere una delle pietre miliari per il recupero del rispetto con gli animali attraverso una legge, perché non venderli più, quindi cancellare sia il negozio di cani e gatti nelle vie cittadine, così come quello che è la vendita, la riproduzione, l'allevamento degli animali a fini zootecnici, quindi sto parlando del più grande sterminio in numero di animali che avviene nel nostro pianeta, quindi la loro commercializzazione, il loro essere oggetti per noi, oggetti quindi che hanno un valore esclusivamente economico, è un ambito nel quale, un po' come contro la compravendita degli schiavi, questo ridarebbe una parte di dignità base, che definisco base agli animali, un po' come una premessa, perché fino a che sarà normale comprare un animale, potremo approvare tante altre normative, fare dei passi in avanti, salvare tanti altri animali, ma non avremmo scardinato il principio base, a mio avviso, dello sfruttamento, di uno dei tipi di sfruttamento degli animali. Gianluca Felicetti, nel suo libro, racconta delle molte azioni condotte dai gruppi animalisti, delle pressioni sui legislatori, degli sforzi fatti per migliorare la legislazione. In questo momento storico stiamo però probabilmente vivendo una fase di regressione, col tentativo da parte di molte autorità politiche di fare marcia indietro su una serie di miglioramenti legislativi introdotti nell'ultimo trentennio. L'epoca dei diritti animali, come l'ha definito una volta il professor Luigi Lombardi Vallauri, filosofo del diritto e amico della causa animalista. Lo si vede negli attacchi agli animali selvatici, nel progressivo abbandono del progetto Life Ursus in Trentino, nell'ipotizzata riduzione del livello di protezione a livello europeo del lupo, per non fare che alcuni esempi. E lo si vede ora nel disegno di legge in discussione nel Parlamento italiano per modificare le regole sulla caccia, ampliando a dismisura, neanche a dirlo, le opportunità per le doppiette. La proposta di legge, primo firmatario il leghista Francesco Bruzzone, prevede forti cambiamenti rispetto alla normativa attuale, che risale al 1992. In un articolo pubblicato nei giorni scorsi sul Corriere della Sera, firma di Alessandro Sala, si sintetizza così, all'inizio del testo, la proposta. Competenze legislative assegnate alle regioni, con meno vincoli per i cacciatori, maglie più larghe sull'utilizzo dei richiami vivi, e ancora, autorizzazione agli abbattimenti degli ungulati al di fuori dei giorni e degli orari in vigore, e possibilità di impiego di visori notturni sul modello di quelli utilizzati in ambito militare. Si tratta di una proposta di legge in realtà meno radicale di quella ipotizzata da un altro deputato dell'estrema destra, Bartolomeo Amidei di Fratelli d'Italia, che fra le altre cose prevedeva la soppressione dei giorni di silenzio venatorio, l'assoggettamento dell'ISPRA alla presidenza del Consiglio, l'aumento delle specie cacciabili, la licenza di caccia a 16 anni. Era forse troppo, tanto che il governo Meloni aveva preso le distanze, ma è possibile, se non probabile, che il testo più moderato del leghista Bruzzone sia peggiorato e ulteriormente radicalizzato attraverso gli emendamenti. Tanto più che in vista delle elezioni della prossima primavera è facile immaginare che Lega e Fratelli d'Italia faranno a gara per accaparrarsi i voti dei 500.000 cacciatori, dei loro familiari, delle altre persone coinvolte nel business della caccia, inclusa l'industria armiera. Per le associazioni animaliste, per gli ambientalisti, in generale per le persone democratiche, si profila un fronte di impegno non semplice. Nel mondo della politica prosegue la forte iniziativa intrapresa dall'Italia a livello europeo contro la carne coltivata. Le aziende del settore sono in attesa di ottenere dalla Commissione europea il via libera alla produzione e commercializzazione, ma il nostro paese è divenuto il capofila di un movimento sostenuto dall'agroindustria tradizionale che tenta di bloccare sul nascere il nuovo cibo. un alimento a base di proteine animali ottenuto in laboratorio, senza allevamento né uccisione di animali. Una rivoluzione tecnologica, dalla portata però incerta sotto il profilo del successo commerciale. Ma per l'Italia e le industrie zootecniche il pericolo deve essere comunque sventato in origine. E così si spiega la legge, già approvata dal Parlamento italiano, che vieta la produzione e il commercio in Italia della carne coltivata. Carne che il ministro Lollobrigida e le associazioni zootecniche preferiscono chiamare sintetica. Il divieto italiano verrebbe automaticamente messo fuori legge nel momento in cui la Commissione europea proponesse e ottenesse l'approvazione di una richiesta di commercializzazione, secondo le procedure previste dal regolamento dell'Unione sui novel foods, i nuovi cibi. Secondo il regolamento, l'eventuale proposta favorevole della Commissione potrebbe essere respinta solo se vi fosse una maggioranza qualificata di Stati membri contraria. L'Italia evidentemente vuole evitare a tutti i costi il parere favorevole della Commissione e perciò con Austria e Francia ha elaborato un documento che ha avuto il sostegno di Repubblica Ceca, Cipro, Grecia, Lussemburgo, Lituania, Malta, Romania, Slovacchia e Ungheria. Un gruppo di paesi che però potrebbe essere insufficiente a fermare l'eventuale via libera della Commissione. In questo scenario il ministro Lollobrigida è arrivato a ipotizzare niente meno che lo strumento di un referendum per respingere il nuovo cibo, che a quel punto sarebbe in procinto di arrivare nei supermercati e nei ristoranti. Quasi una crociata. Una notizia che ci fa capire quanto un cambiamento nell'atteggiamento diffuso verso gli animali stia prendendo piede arriva dalla Francia. È stato inaugurato a Parigi nei giorni scorsi un monumento in omaggio agli animali morti in guerra, in particolare nella Prima Guerra Mondiale. Le figure di un cavallo, di un asino, di un cane, di un soldato che afferra un piccione si stagliano all'interno di un elegante giardino del VII arrondissement, nel cuore della capitale. Il monumento è azzurro, lo stesso colore della divisa dei soldati francesi durante la Grande Guerra. Si calcola che nell'inutile strage, come Papa Benedetto definì quella guerra, oltre a milioni di persone umane, morirono anche 11 milioni di equini, 100.000 cani e 250.000 piccioni, tutti impegnati nel conflitto a fianco delle truppe dei rispettivi paesi. Per l'associazione Paris Animaux Zoopolis, l'inaugurazione del monumento è il felice epilogo di 5 anni di una accanita campagna a favore degli animali di guerra, cominciata nel 2018, nel centenario dell'armistizio. Monumenti simili sono già stati inaugurati in alcuni comuni del nord-est della Francia, ma anche in città come Bruxelles, Londra, Canberra, Ottawa. Da una 20 anni gli anglosassoni hanno sviluppato un'altra memoria, dove l'animale assume la sua personalità, sottolinea Serge Barcellini, presidente dell'associazione Souvenir Français, garante della memoria dei soldati caduti per la Francia, associazione che ha significativamente sostenuto l'iniziativa. Le parole sussurrate zitte, poi gridate le parole tue per me. Morirò d'amore, morirò per te. Dalla Grande Guerra 14-18 alle guerre dei giorni nostri. Ci spostiamo in Palestina, oggetto in queste settimane di una tremenda offensiva militare da parte israeliana. A Gaza, ma anche in Cisgiordania, la stessa vita umana sembra valere sempre meno. Figuriamoci le vite animali. Eppure le associazioni animaliste locali continuano il loro impegno. Il rifugio di Betlemme, unico ente di beneficenza per animali registrato in Cisgiordania, si sta prendendo cura di migliaia di cani. Prendiamo la notizia dal sito euronews.com. Con l'aiuto delle organizzazioni internazionali per gli aiuti di emergenza Animal Heroes, la fondatrice palestinese del rifugio di Betlemme, Diana Babish, sta fornendo acqua, cibo e cure mediche a cani, gatti e altri animali affamati. La situazione è straziante, dice Esther Keff, fondatrice di Animal Heroes, a euronews.com. Ogni giorno Diana riporta al suo rifugio cani disidratati e affamati. Se non agiamo in fretta, migliaia di animali non sopravvivranno. Una situazione disperata. Unica nota positiva in un contesto impossibile, il fatto che nonostante il conflitto, cittadini palestinesi e israeliani stanno lavorando insieme per curare gli animali in difficoltà. Un piccolo segnale di pacificazione e di voglia di stare insieme. Dunque uno sguardo, fra i pochi in quell'area, verso il futuro. Abbiamo chiesto a Gabriele Palloni, tosco vegan chef, autore fra gli altri del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, una ricetta che unisca, anche a tavola, israeliani e palestinesi. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Il makluba è un piatto palestinese il cui nome significa capovolto ed è proprio per questo che ve lo propongo, che sia di buon auspicio affinché il conflitto fra questi due popoli si ribalti risolvendosi in una soluzione di pace. Gli ingredienti per 6 persone sono 500 g di riso basmati, 750 ml di brodo vegetale, 400 g di ceci lessati, un cavolfiore, 3 pomodori, 4 spicchi di aglio, qualche foglia di alloro, cardamomo, un mix dei seguenti spezie in polvere, curcuma, cannella, noce moscata e pepe nero, olio extravergine di oliva, 2 cucchiai di mandorle, sale. Pulite il cavolfiore e dividetene i broccoli. Condite con l'olio extravergine e gli spicchi di aglio interi e non sbucciati. Infornate a 180 gradi in modalità ventilata per 20 minuti. Aggiungete i pomodori e fate cuocere ancora 10 minuti. Nel frattempo lavate il riso con acqua fredda. Sbucciate l'aglio e schiacciate gli spicchi e aggiungete le verdure. A parte, in una padella fate tostare le spezie in polvere per un minuto circa. Versate le spezie nel brodo vegetale, aggiungete l'alloro e il cardamomo. Passate un cucchiaio di olio sul fondo di una casseruola, adagiate il cavolfiore, i ceci e i pomodori fino a coprire bene la base. Adesso aggiungete il riso e coprite tutto col brodo. Mettete sul fuoco e una volta giunta ad ebollizione abbassate il fuoco e coprite col coperchio e fate cuocere per 20 minuti. Togliete dal fuoco e lasciando il coperchio fate riposare per 5 minuti. Nel frattempo tostate le mandorle in una padella con un cucchiaio di olio extravergine e se lo gradite anche del peperoncino. Scoperchiate la casseruola e capovolgete il tutto su di un vassoio. Condite con le mandorle tostate e l'olio prima di servire. Per questa settimana è tutto. Vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Gianluca Masala, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla, Valentina Baronti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.